It's like you know, wheat into dough. Come quando mettiamo, quando trasformiamo il grano in pasto. And we pour it into the middle vessel here. And we pour it into the middle vessel, and it pours out from the middle vessel. You see. E quindi mettiamo l'acqua nel bicchiere, il quello interno, in modo che fluisca fuori dal bicchiere. And this is to symbolize the illimitability of that. E questo simboleggia l'illimitabilità dell'amore, l'amore illimitato. Yes, and of course the power of our goodness power. Ovviamente il potere della nostra bontà. This is punya. Some of you know it as merit. E questi sono i punya. Alcuni lo conoscono col nome di meriti. In the East, they think of it like a bank account. In Oriente lo considerano come un conto in banca. In fact, I think most Buddhists think of it as a bank account. La maggior parte dei buddhisti lo considerano un conto in banca. But it's actually your goodness power, the power of your goodness. In realtà sono il potere della vostra bontà. And this enters into these strings, which are then, if you wish, tied to your wrists. E quindi questa acqua poi tocca questi fili dorati, che poi, se volete, vengono, vi verranno messi intorno al polso. And then of course nothing can harm you, you can't die, things like that. E poi ovviamente nessuno può, non avrete nessun danno, cioè nessuno può farvi del male, cose di questo genere. So we can begin by just taking refuge in the precepts. Prendiamo il rifugio precetti. Buddham, Buddham, Buddham. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bodhan Saranam Gacchami, Dhamman Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, Dutiyampi Gurum Saranam Gacchami, Dutiyampi Dhamman Saranam Gacchami, Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami, Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhamman Saranam Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Panati pana veramani sikapadam samadhiyami. Adinadana veramani sikapadam samadhiyami. Kamesu michachara veramani sikapadam samadhiyami. Musavada veramani sikapadam samadhiyami. Suramaraya majjhamadatana veramani sikapadam samadhiyami. Now I'll do the an evening chant, the metta chant, and while the water is being poured, you can bring people to mind whom you wish to offer your punya to, your goodness power, and just make sure that you end up with all beings. You see. Always end up with all beings. Quindi adesso Bhante reciterà il Metta Sutta, quello che recitiamo la mattina. Yes, we chant in the morning. No, evening chant. La sera. Anzi, quindi non il metta sutta, il canto di metta, e mentre lo recita tu verserai l'acqua in modo che finisca fuori dal bicchiere e noi potremo pensare a tutte le persone a cui vogliamo mandare questa energia della nostra bontà, assicurandoci però di finire sempre offrendola a tutti gli esseri. Ok. And if you can pour it so we can hear a little bit of the dripping. Dovremmo sentire il rumore dell'acqua che scorre. Purti maya disaya, pacci maya disaya, uttaraya disaya, dakshinaya disaya. Purti maya nudisaya, pacci maya nudisaya. Uttaraya nudisaya, dakshinaya nudisaya. Hetimaya disaya, uttarimaya disaya. Sabe saka, sabe kana, sabe bhuta, sabe bhukala. Sabe yata bhava pariya kana. Sabe itiyo, sabe purisa. Sabe ariya, sabe anariya. Sabe deva, sabe manusa, sabe vinipatika. Averahantu, abhyabhajahantu, anidahantu, sukhiyatanam pariharantu. Dukhamuchantu, yatalajasampatika, mavikachantu. L'ha già tutto. It's symbolic of self-emptying. So un simbolo dello svuotamento di sé. So the three blessings, like I said this morning, are the protection of the three Buddhas. That's the self-enlightened Buddha, the private Buddha who doesn't teach but is also self-enlightened, and those who become Buddhas by following the Buddha. How's that? Quindi cosa sono le tre benedizioni di benedizioni dei tre Buddha, il primo è il Buddha autoilluminato, il secondo è il Buddha privato, che è un illuminato però non insegna, e il terzo sono i Buddha che hanno imparato a loro volta da un Buddha, sì. Ricevuto l'insegnamento a loro volta da un Buddha. Sì. Come noi. Sabba Buddha Balapatha Pache Kanan Chayam Bhavan Arahantanam Tate Jena Ratam Bangrami Sabha So Pache Joya. Anybody else? Don't rush. Sabha Buddha. Sabha Buddha Balapatta Pachikanam Chayam Balam Arahantanam Tate Jena Ratam Bandami Sabha So. Peace and joy. You got a heathen one? Yes. Sabha Buddha Balapatta Pache Kanam Chayam Balam Arahantanam Tate Jena Rakam Bandami Sabha So. Put an absolute finish on it, you see. You can't go back on it now. Sabha Buddha Balapatha Pache Kanan Chayam Balan Arahantananta Tejena Rakam Bandami Sabha So. هاتي no, ايوه ايوه ثانيه Sabha Buddha Balapattha Pache Kanan Chayambhavan Arahantanam Tateyena Rakham Bangami Sabha Sohti Sanjaya. Ready? Very good? No. No? Oh, come on. Yes, yes, yes. Sabha Buddha Balapattha Pache Kanan Chayambhavan Arahantananta Tejena Rakambandami Sabha So Ecco, finito, lei? Ah, di più. E l'altro mi ha rotto l'altra settimana. Ah. Quello dell'anno scorso. Ah. Yes? Sabha Buddha Balapattha Pache Kanan Chayambhavan Arahantanam Tateyena Rakham Bandhami Sabha So. Sabha Buddha Balapattha Pache Kanan Chayambhavan Arahantanam Tateyena Rakham Bandhami Sabha So Okay, very good. See? So, if we need a cup of tea, or I think